si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua alle 8.18 in diretta, 800 24 0024, il numero verde per intervenire in diretta, potete chiamarci per sentire, per commentare quello che state sentendo, ma anche per raccontarci come ogni fine settimana che cosa ha reso più bella la vostra settimana, insomma le vostre buone notizie all'800 24 0024, anche oggi i racconti più belli. Per i racconti più belli mettiamo in palio biglietti e il prezioso catalogo per la mostra Pre-Raffaelliti a Torino, Andy Warhol a Roma. Tra poco parleremo di OGM, cioè di quello che arriva poi sulle nostre tavole, di quello che mangiamo, della nostra alimentazione, perché nella settimana nella quale l'Unione Europea ha deciso sostanzialmente di non decidere, cioè ogni Stato sarà libero di decidere se coltivare o meno OGM anche in assenza di direttive europee, quindi un liberi tutti in Europa. Proprio in questa settimana c'è una lettera di 700 agricoltori che vorrebbero coltivare OGM in Italia. Fino ad oggi si è detto che erano pochi, pochissimi, una nicchia, adesso sembra un fenomeno che sta allargandosi, che chiedono appunto di riaprire il dibattito. Il ministro dell'Ambiente Galletti ha detto in quella sede europea l'Italia ha già deciso di continuare a non coltivare OGM, ma questa decisione europea è destinata forse anche a riaprirlo questo dibattito. Noi vogliamo farlo così tranquillamente, laicamente, come si dice, parlando proprio con loro. 800 24 00 24. Adesso però ritorniamo sulle prime pagine dei giornali e voglio sulle pagine dei giornali, voglio iniziare così con Buffon, Darmian, Paletta, Barzagli, Chiellini, De Rossi, Candreva, Verratti, Pirlo, Marchisio, Balotelli. È la probabile formazione dell'Italia stasera contro l'Inghilterra, così come la Gazzetta dello Sport riporta, e insomma quello che dicono anche un po' tutti gli inviati, che dovrebbe essere questa la squadra che esordirà questa sera al Mondiale. Riprendiamo invece argomenti diciamo più corposi, più seri. Per esempio avevamo detto l'intervista di Vannino Chiti sul Corriere della Sera a proposito dei dissensi interni al PD. Chiti, un nuovo gruppo, così il PD non va, Matteo rischia se si maschera da destra. Vannino Chiti, ex presidente della Toscana, ministro delle riforme, vicepresidente del Senato. Adesso che succede? Sono stato sostituito in commissione in modo preventivo, senza che Zanda mi avesse detto nulla. Non si sono fidati di me e questo mi offende. Ieri Renzi, però, avete sentito in conferenza stampa, ha detto: abbiamo sostituito dei rappresentanti nella commissione perché se sono in disaccordo con col partito, con la maggioranza, col gruppo, col governo, insomma, hanno tutta la libertà di voto e di coscienza in aula, ma all'interno delle commissioni dove bisogna far passare i disegni di legge per poi portarli appunto alla discussione generale, questo non può funzionare. Chiti non è d'accordo. Il PD rischia la scissione? E risponde Chiti: sarebbe sbagliato, ma un partito non può essere l'attendente che segue un governo. Io non ho mai visto nella storia repubblicana una cosa così grave. È stato calpestato l'articolo 67 della Costituzione. Per Zanda però l'articolo della Costituzione non c'entra, i senatori possono essere sostituiti, dice Chiti. La lettura che stanno dando, secondo cui l'assenza di vincolo di mandato vale per l'Aula e non per le commissioni, è un irresponsabile arrampicarsi sugli specchi. Per questo vi siete autosospesi in 14? Io penso che dove i parlamentari sono meno liberi è meno libero anche il Paese, dice Chiti. Sicuramente c'è un tema di libertà, però mi viene da dire a Chiti che in questi anni il Parlamento ha dato, i parlamentari hanno dato anche prove di eccessiva libertà. Pensate a tutte le leggi omnibus a fine anno, a tutte le regalie che vengono fatte nelle varie leggi economiche, dove questa libertà non viene interpretata oggi dai cittadini in senso molto molto positivo. Farete ricorso a questa decisione? Sicuramente sì. Prima di tutto però vorrei che venisse ripristinato il punto fondamentale dell'articolo 67 della Costituzione, dice Chiti. Su questo vado fino in fondo, vuol dire fino a lasciare il gruppo. Sul valore della Costituzione io non posso, non posso, non posso, dice tre volte Chiti, cedere di un millimetro. Quindi è evidente che, insomma, il Partito Democratico, una scissione, non so, chiamatela come vi pare, insomma, qualche problema lo rischia sul fronte di questi 14 autosospesi, sì. Più importante è la vicenda del sindaco di Venezia Orsoni, che ieri si è dimesso da primo cittadino, costretto a dimettermi, scrive Repubblica, da opportunisti e ipocriti. Però c'è un tema che mi riguarda il PD e non solo Orsoni. Renzi ieri ha detto ha patteggiato, non poteva restare sindaco, tutto bene, all'esame dei PM però il ruolo dei deputati zoggia e mognato. Leggiamo cosa succede. Ha resistito a 8 giorni di arresti domiciliari, ma non alla notte in cui si è consumato lo strappo con il PD. Rottura definitiva a Roma più che a Venezia, 24 ore di tempo che si era preso per valutare se dimettersi o meno non sono neanche trascorse. E ieri mattina ha dovuto accettare le richieste arrivate da Roma. Lascio per marcare le distanze dalla politica, ha detto leggendo in conferenza stampa una lettera che aveva inviato anche al Presidente del Consiglio Comunale, ma le sue accuse, quelle di Orsoni, a 3 esponenti del partito, i deputati Davide Zoggia, Michele Mognato e già arrestato Gianpietro Marchese, mi spinsero loro, ha detto Orsoni nel 2010, a chiedere soldi al consorzio del Mose, di fatto, scrive Repubblica, sono una chiamata di correità. Al momento i 3 non sono indagati, la procura veneziana sta però valutando se iscriverli o meno nel registro degli indagati, quindi qualche novità in arrivo potrebbe esserci. A proposito delle nuove nomine, dicevamo prima di Istat, Anac, Enit, Agenzia del Demanio, ma soprattutto Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, c'è un'intervista della Stampa, la prima alla neo nominata direttrice dell'Agenzia delle Entrate. Le tasse sono il suo pane quotidiano, scrive la Stampa. Evasori e fannulloni, i suoi peggiori nemici. Una lady di ferro dall'accento toscano. Di Empoli, però, precisa lei, non di Firenze, mi raccomando. Dal 2011 è direttrice regionale dell'Agenzia delle Entrate in Piemonte. Dice lei, dal primo giorno che ho messo piede nell'amministrazione pubblica ho sempre creduto che è nostro dovere essere al servizio dei cittadini. E fin qua ci piace, eh? Purtroppo la gente ha spesso una percezione sbagliata del ruolo degli esattori. E già si comincia ad accusare il cittadino di avere una percezione sbagliata dell'Agenzia delle Entrate. Può darsi, tante volte anche loro ci mettono del loro, eh. Ecco perché, prosegue la Orlandi, dobbiamo impegnarci a rendere più semplice il modo di pagare le tasse. Questa, secondo me, è la missione dell'agenzia. Oh, benissimo, anche su questo credo che ogni cittadino sottoscriverebbe. Semplificare, una parola magica per quanto riguarda il fisco italiano. Però è un tema complesso. Vabbè. Ancora, a fama di inflessibile, in Piemonte si è trovata ad affrontare momenti difficili a causa di impiegati infedeli. Un guaio per l'immagine dell'ente? Dice lei, la legalità che intendo io ha un significato etico, a maggior ragione per chi lavora nell'amministrazione, per difendere il senso etico di appartenenza occorre fare pulizia dentro e fuori, chi sbaglia va cacciato, questo è quello che penso io e l'ho dimostrato, è proprio renziana, eh? Poi continua Rossella Orlandi, la legalità non dobbiamo solo pretenderla ma dimostrarla lavorando onestamente, e anche questa, insomma, dichiarazione di principio però sottoscrivibili, come no. Il Fatto Quotidiano si incarica di darci questa notizia. Il neo alleato in Europa di Grillo, Farage, potrebbe finire sotto inchiesta in Inghilterra per fondi non dichiarati. Nuovi guai in arrivo per Nigel Farage, il leader dell'UKIP, appena scelto dal Movimento 5 Stelle come alleato a Strasburgo, è accusato in patria di non avere dichiarato all'ufficio elettorale britannico una serie di donazioni e finanziamenti alla sua attività per un totale di 250.000 euro. Si tratta di previsioni, diciamo, di reato che potrebbero portare a una condanna a Farage fino a 12 mesi e a un'ammenda fino a 25.000 euro. Il Parlamento europeo non ha aperto un'inchiesta, ma la Commissione elettorale britannica sì. Staremo a vedere se c'è un passo falso in questo senso, il Movimento 5 Stelle in Europa che si allea con uno che nasconde fondi elettorali, loro, i 5 Stelle, che invece della trasparenza hanno fatto una giustissima, secondo me, bandiera. All'Italia, sul Messaggero, ieri, lungo consiglio di amministrazione della compagnia, ennesimo via libera, non so se è il quarto o il quinto che arriva, non so quanti ancora ce ne vorranno, però insomma lo stato dell'arte è questo. Quali sono i nodi però che rimangono? Scrive il Messaggero. Etihad chiede la rinegoziazione di un debito di mezzo miliardo di euro, 2251 esuberi. Così all'Italia passerebbe da 13.700 dipendenti a 11.400. Altro versante delicato che chiama direttamente in causa il governo Renzi è quello relativo alle infrastrutture. Etihad ha chiesto il superamento del decreto Bersani per l'INATE, che limita gli slot, ma anche il superamento dei vantaggi competitivi per le compagnie low cost, così come migliori collegamenti ferroviari con l'aeroporto di Fiumicino. Ora, dunque, scrive il Messaggero, tocca al governo, tocca a Roma, insomma, come dire, favorire questo passaggio, questo ingresso di Etihad in Alitalia, questa sostanziale fusione. Ancora una prima pagina, quella del Giornale. Così Monti ha ingannato i Marò. Alle 16.45 di oggi manifestazione a Roma, indetta dal Giornale, dal Tempo e da Libero sulla vicenda dei Marò. Adesso si scopre, scrive il Giornale, che l'ex ministro Terzi punta il dito contro Mario Monti e l'ex ministro dello sviluppo Corrado Passera. Fu lui, dice Terzi, secondo quello che scrive il Giornale, a insistere per farli tornare in India. Invece il premier rassicurò La Torre e Girone che tutto si sarebbe risolto nel giro di pochissimi mesi. Una bugia calcolata, un vero tradimento, scrive il Giornale, nei confronti dei due soldati che ancora oggi stanno in India. A fianco a questa notizia, quindi all'appello a questa manifestazione di oggi a Roma per i Marò, c'è Briatore guida la Versilia nella rivolta ai Vucumprà. Spiagge invivibili, un tweet di Briatore nel quale dice ci sono troppi Vucumprà e nessuno fa niente. Vabbè, insomma, questo Briatore sui Vucumprà in spiaggia, che sicuramente danno fastidio forse ai commercianti, però credo che i cittadini non siano poi fondamentalmente troppo infastiditi da qualche venditore ambulante. 800 24 00 24, vediamo, tra poco ci risentiamo dopo la pausa. Si può fare cronache da un paese migliore. Spegni anche l'ultimo raggio di luce possibile. Passiamo la notte da svegli a parlare, parlare, parlare. E man mano che aumentano i gradi di separazione, capisco che l'uomo che hai in mente non sono io. Lasciami andare. Lasciami andare, lasciami andare. Sono stati invece lasciati andare gli stati europei, secondo l'Unione Europea, liberi di decidere se coltivare o meno OGM. Parliamo di questo, parliamo di OGM, perché in settimana è arrivata questa decisione, una forse non decisione da parte dell'Unione Europea. Liberi tutti sugli OGM. L'Italia ha già detto no, in Italia non si possono coltivare. Però proprio in questa settimana, e prima ancora di questa decisione dell'Unione Europea, era arrivata una lettera di 700 agricoltori, una lettera pro OGM inviata alla senatrice a vita Elena Cattaneo, che in un altro senso lavora anche sulla genetica, ed è anche per questi meriti che è stata nominata senatrice a vita. Ne parliamo con uno dei firmatari di questa lettera a favore della coltivazione di OGM. Lui è un ingegnere, ha un'azienda agricola. Franco Nulli, buongiorno. Buongiorno a voi. Già ribattezzato così il capofila un po' degli agricoltori italiani pro GM. Si è sempre detto che non ce n'erano in Italia di agricoltori che vogliono coltivare OGM, invece adesso siete almeno in 700. Senta, prima di tutto le voglio chiedere, siete soddisfatti da questa decisione o non decisione che è arrivata dall'Europa? Ma guardi, secondo me, come dice lei, è una non decisione. Diciamo che l'Europa ha fatto ponzi pilati in questo caso, ha detto arrangiatevi tutti e fate quello che volete. secondo me non è una cosa intelligente, perché, cioè, voi avreste voluto, non segue la logica, sì. Non segue la logica. Perché devo dire che anche, diciamo, i più contrari alla coltivazione di OGM, cioè associazioni come Slow Food o Greenpeace o altri, insomma, hanno detto, sono rimasti insoddisfatti perché volevano invece, diciamo, una copertura ancora più netta contro l'OGM. Voi volevate un'apertura che non è di fatto arrivata, quindi, diciamo, è un pari e patta, potrebbe essere questa una sintesi, diciamo, giornalistica un po' banale. Senta, però, parlando invece nel merito della questione, noi spesso anche da questi microfoni abbiamo difeso l'agricoltura italiana come prodotto importante del Made in Italy, tutta. E si è detto, lo ha detto trasversalmente l'attuale ministro Martina, ma anche l'ex ministro Zaia, che, insomma, l'Italia può avere un'agricoltura di qualità e di nicchia anche perché non ha terreni estensivi, non ha bisogno di OGM. Perché invece voi insistete a volerlo fare? Ma il discorso è molto semplice. Gli OGM sono un'evoluzione dell'agricoltura. Che poi siano giusti o sbagliati sarà la scienza a dircelo e sarà l'esperienza a dircelo. Ma quello che secondo me è sbagliatissimo è che sia assolutamente impedito di fare ricerca in questo campo, perché non possiamo sapere se ci servono o se non ci servono sulla base di discorsi da fattucchiere. Non possiamo affidarci ai sentito dire per sapere se ci servono o no. Quindi è voi, un ragionamento non logico. Diciamo, volete introdurre già una distinzione tra coltivare e ricercare, cioè almeno la ricerca vuol dire che si possa fare, magari anche sperimentando su alcuni campi, poi concretamente. Questo mi sembra già un punto, no? Lo ripeto, io non sono un talebano pro OGM, però sono convinto, sì, che gli OGM servono. Lasciamo che sia la scienza a dircelo, la scienza e l'esperienza. Su questo devo dire che anche il ministro Martina, proprio tra l'altro ai nostri microfoni qualche settimana fa, aveva detto che è favorevole, insomma. E quindi, boh, chissà, magari qualcosa si farà in questo senso. Lei ha un'azienda agricola e che cosa produce? Io in questo momento sono produttore di mais, riso e soia, e due di questi prodotti, sì, sarebbero direttamente interessati all'argomento, perché il mais e la soia sono le due principali colture, sì, che a livello mondiale sono interessate dal fenomeno OGM, quindi capisci che il mio interesse è anche particolare da questo punto di vista. Perché, diciamo, i costi si abbatterebbero, no? Un po', perché cos'è che diciamo, rende possibile una coltivazione OGM dal vostro punto di vista? Allora, iniziamo a dire che è sbagliato parlare di OGM generico, bisogna parlare di modifiche specifiche. Nel mais, ad esempio, la modifica che è stata introdotta è la linea BT, Bacillus thuringiensis, è una pianta che viene resa resistente naturalmente alla piralide. La piralide è un parassita. Parassita, esatto. Il danno diretto, e questo è scientificamente provato e statisticamente provato, della piralide sulla produzione di mais è come minimo il 5%, normalmente si considera il 10%, quindi qui non c'è bisogno di fare tanti calcoli, uno produce il 10% in più o il 10% in meno. L'alternativa è quella di utilizzare degli insetticidi a pieno campo, quindi si rifletta a fare i conti, non è molto difficile. È per questo che la soia, sì, c'è un altro discorso, sì, completamente diverso. La soia invece viene resa resistente a un diserbante, per cui ridotto in estrema sintesi, si fa un solo trattamento diserbante sulla coltura della soia transgenica e se ne fanno 4/5 nella coltivazione normale. Voi dite meno pesticidi, meno chimica. Ecco perché lei ha detto in una intervista qualche giorno fa: è più sicuro mangiare una polenta fatta con mais OGM che una fatta col biologico. A qualcuno, sì, saranno caduti i capelli in testa. Ovviamente, è una battuta, sì, ovviamente, e non mi riferivo solamente al biologico, perché non ho nulla di particolare contro il biologico. Bravo, però meno male. Avendo sì, visto anni fa la stessa varietà di mais OGM e non OGM, e ho visto la differenza tra OGM e OGM, assicuro che non avrei Non avrei. Senta, però abbiamo capito questo concetto, diciamo, no? Sull'invasività dei pesticidi, che ed è la grande, come dire, elemento di forza degli OGM, è proprio quello di promettere e anche garantire meno pesticidi, perché le piante sono naturalmente resistono a questi parassiti. Però dove, nei paesi dove sono più avanti di noi in questa sperimentazione, come per esempio gli Stati Uniti, recentemente sembra che stia emergendo dicendo che dopo alcuni anni succede che arrivano nuovi altri parassiti che aggrediscono queste piante, che sono resistenti sì ad alcuni parassiti ma non ad altri, quindi bisogna poi fare un nuovo investimento, quindi nuova ricerca, nuovi semi transgenici, e siamo punto e da capo. Cioè il problema non si risolve, si rimanda, e quindi questo abbassamento anche dei costi per gli agricoltori in realtà sarebbe un rimandare il problema in futuro. Vi risulta questa cosa o no? Sì, ma non è una novità, non è colpa del UGM questo. Da che mondo è mondo, la vita è non è statica, è in continua evoluzione, quindi è ovvio che se si inventa un sistema di lotta a qualcosa, la natura cerca di difendersi creando una resistenza. È ovvio che la ricerca a questo punto progredisce di pari passo e troverà i rimedi anche a questo, ma non è, le resistenze non ci sono soltanto agli UGM, ci sono sempre state, anche ai normali diserbi. Ovvio che l'OGM non è la soluzione di tutti i mali e di tutti i problemi, è una delle soluzioni, e insieme agli altri si crea il quadro completo. 800 24 00 24, cari ascoltatori, che cosa ne pensate? Se state passando il sabato mattina con l'auricolare nell'orecchio ascoltando la radio, però magari ripulendo il vostro orto, oppure se siete proprio sul trattore che state lavorando nei campi, è capitato che ci chiamassero, qualche suo collega, Nulli, quando affrontavamo questi argomenti. Vogliamo sapere cosa ne pensate. Intanto, grazie Franco Nulli, uno dei firmatari di questa lettera. Andrete avanti, credo, in questa vostra richiesta al governo di sperimentare qualcosa in Italia, credo, no? Sì, questo è un inizio, speriamo di riuscire a proseguire nella nostra battaglia, chiamiamola così, anche se non è una guerra. Ma lei oggi dov'è? È in azienda? O... Io sono appena rifermato dai campi in questo momento. Va bene, buon lavoro, grazie. La ringrazio io e saluto tutti gli ascoltatori. Buona giornata. 800 24 00 24, aspettiamo il vostro intervento sul tema OGM. Ripeto, la notizia da cui siamo partiti questa settimana è la decisione, forse non decisione, dell'Unione Europea di rimandare ai singoli stati la facoltà appunto di coltivare o meno OGM. In Italia però il ministro dell'Ambiente Galletti ha già confermato che non si farà. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E buongiorno anche a Carlo Gabardini. Ciao Carlo, ben ritrovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao Alessio. Ben ritrovato in studio dopo le trasferte di Si può fare all'estero, no, a Trento. All'estero no. E tu all'estero, no, vabbè. E neanche Roma è all'estero, Roma. Comunque. Però, c'era il Gay Pride, ma sempre in Italia. Il ventennale del Gay Pride a Roma. Infatti sono molto curioso, anche perché sono arrivato qui e si può dire è cambiato tutto, è un altro studio questo. Il mio stage, diciamo, sta anche sempre diventando più complicato. Evolvendo, perché dal devo punto anche di vista tecnologico. Devo gestire il microfono. Mi hanno fatto dei segni dicendo: tu il microfono oggi lo devi gestire da solo. Quindi sono preoccupatissimo. Nuove importanti probabilmente... dotazioni tecnologiche, esatto, Radio 24. Esatto. E poi sono arrivato, sono entrato nello studio sbagliato, pensavo di aver sbagliato giorno, ho detto: ma come? Perché è un sacco, appunto, come stavi dicendo tu, che non vengo qui in studio, prima perché eravamo insieme a Trento al Festival dell'Economia, e settimana scorsa perché ero a Roma a fare il testimonial del ventennale del Gay Pride. Tra l'altro ti salutano tutti, Alessio. Si può fare, è nato tutto qua questo tuo ruolo, lo ricordiamo. Assolutamente. Radio 24, una mattina parlando con quelli delle cose cambiano, per caso. Carlo, fai il video. Sì, diciamo dopo la lettera, dopo la lettera Repubblica, di poi Repubblica, video. Però è nato qui. Ieri ero al Circolo Harvey Milk a parlare di Le cose cambiano e a tenere una conferenza, un incontro sulla comunicazione LGBT, e abbiamo ricordato il momento in cui Chiara Reali chiamò durante la trasmissione incastrandomi dicendo: sì, devi fare un video. Io dissi di sì, e a quel punto poi il video dovetti farlo, e sono felicissimo che se riusciremo, diciamo, anche a tirarti fuori da tutto quel mondo e farci un po' anche da inviato dalle nostre notizie buone, curiose ogni tanto. Cioè, perché tu dici non solamente notizie gaie. Me l'hanno, guarda, addirittura hai della solidarietà da parte di ragazzi omosessuali che mi hanno anche detto: non tartassare troppo, Alessio, con la questione sulla gaytudine. Va bene, meno male. Esatto, infatti inizio subito a parlare di un argomento, però è dopo, perché è lo spot della Findus, come molti già sanno, è uscito uno spot che è forse il primo spot italiano in cui si parla apertamente di omosessualità, ecco, e in cui un ragazzo fa coming out. Ha suscitato moltissime polemiche questo spot, perché è uno spot della Findus in cui non si vedono le facce e si vede un figlio semplicemente che va a cucina per la madre e alla fine gli dice: comunque lui non è solamente il mio coinquilino, è anche il mio compagno. E la madre risponde: lo sapevo benissimo. Ora, io personalmente devo dire che è lodevole l'idea, l'iniziativa, quindi di occuparsi di questo tipo di tematiche, che poi molto semplicemente, come abbiamo detto diverse volte, è anche semplicemente accorgersi che gli omosessuali sono anche una fetta di mercato, e quando ci si accorge, sì, di questo, in realtà si diventa anche un po' più forti. Poi va anche detto che nell'anno in cui lo slogan dello stesso Pride romano era "io ci metto la faccia", fare il primo spot gay in cui non si vedono le facce non credo che sia stata un'operazione. Comunque, come vedete, non riusciamo a tirare fuori Gabardini. No, questo è importante, mi hanno chiamato, chiamato da altre radio per commentare, sì, questa cosa. Ho detto: lo dirò a Radio 24, sabato mattina. No, però è importante, almeno dal mio punto di vista, dire che comunque è lodevole il tentativo, l'operazione. Poi, siccome è l'unico spot che c'è con tematica omosessuale, ovviamente si sta anche iper attenti, e quindi qualcuno dice: ma com'è il coming out, fare il coming out in questo modo, la madre che già lo sapeva, tutto molto rapido, e tutto che diciamo non si capisce esattamente che cosa succede in questa famiglia. Però complimenti alla Findus, perlomeno, che ha fatto uno spot. Vado a questa prima notizia che mi ha molto divertito. Oddio, divertito forse è esagerato. Comunque, nel 1980, precisamente l'8 dicembre, come sapranno tutti, muore John Lennon, ucciso, il genio, diciamo, dei Beatles, ucciso a colpi di pistola. Poi che cosa succede? Negli anni successivi una marea di oggetti appartenenti a John Lennon vengono venduti ad aste, piuttosto che musei, piuttosto che in un sacco di manifestazioni. Uno di questi oggetti è un dente che John Lennon aveva regalato alla sua donna di servizio. Che cosa orrenda. Esatto, questo dente 2 anni fa viene acquistato per 31.000 euro da dollari, scusatemi, da un dentista canadese che si chiama Michael Zook, il quale adesso, esattamente, è il suo campo, diciamo, il quale adesso ha dichiarato che vuole clonare John Lennon. Dice: sarà l'esatto duplicato di Lennon, ma se tutto va bene lo terremo lontano dalle droghe e dalle sigarette. Quindi un John Lennon molto ripulito, sano, ripulito. Non sappiamo ma se suonerà bene, fa... ovviamente. No, perché lui dice: le droghe fanno male, sì, ma le lezioni di chitarra non fanno male, giusto? Quindi gli daremo lezioni di chitarra. In realtà non esiste ancora la tecnologia possibile affinché ciò avvenga, però mi sembra che questa notizia apra un interessante scenario, ovvero di chi è il nostro DNA, perché questo medico non ha nessun grado di parentela era con John Lennon, semplicemente ha comprato un dente e dice: io adesso lo clono e vediamo che cosa diranno i parenti. Mi sembra una cosa discretamente assurda e futuribile. Esatto. Ma non tanto se consideri che ci sono invece delle multinazionali che hanno già comprato dei brevetti, delle esclusive su alcuni pezzi del nostro DNA per clonare. Altra, sì, notizia, e sì, poi dobbiamo andare agli ascoltatori, giusto? Sì. È venerdì 6 giugno la CIA, proprio il Central Intelligence Agency, ovvero l'agenzia di spionaggio degli Stati Uniti, ha aperto un suo account Twitter ufficiale, sì, siccome sì, do sempre, sì, notizie su Twitter. Ma ha fatto molto ridere il primo tweet della CIA, ovvero: non possiamo confermare né negare che questo sia il nostro primo tweet. E questa era carina, questa molto... era carina. Sì, soprattutto io mi aspetto a questo punto, non vedo l'ora che ci sia un account Twitter dei nostri servizi segreti. Sarebbe bellissimo, perché pensa su fantoziano, Twitter... Fantoziano, sarebbe una cosa fantoziana. Ma sarebbe questo. Stupendo, ma pensa alle domande che uno inizia a fare su Ustica, su Piazza Fontana, sulla trattativa Stato-mafia, tutto via Twitter. Dice: va bene, sembra... la trasparenza, però qui si esagera. No, va bene, va bene. Andiamo però velocemente con qualche ascoltatore prima di chiudere, anzi in realtà con uno perché abbiamo un minuto. Massimo da Trapani, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, prego. Buongiorno, buongiorno a voi. Sono Massimo Scacco, sono un agronomo. Sì. E, sono in realtà di Pisa, lavoro come libero professionista in tutta Italia, in tutto il centro-sud Italia, anche un po' all'estero. Volevo intervenire a proposito degli organismi geneticamente modificati. Dica. Dicendo che non trovo assurda la decisione di vietare di fatto in Italia la coltivazione degli organismi geneticamente modificati. Mi riferisco ad un esempio soltanto, unico, che è quello del mais PT, è un mais che produce la stessa tossina che viene prodotta da un prodotto commerciale che è autorizzato in agricoltura biologica. Allora non capisco come distribuire questo prodotto autorizzato nell'agricoltura biologica sia consentito e sia anche riceva anche il plauso da parte degli ambientalisti o di chi si oppone agli organismi geneticamente modificati, e questo mais che all'interno la possibilità veloce che dobbiamo chiudere tossina venga avversato. Ricordo soltanto che il BT, il Bacillus thuringiensis, diciamo combatte la piralide, che è la maggiore questo l'abbiamo detto anche prima con Nulli. Grazie a lei e altri ascoltatori sul tema OGM e sul resto dopo il giornale radio 800 24 00 24. Si può fare cronache da un paese migliore. Questa Off Monster and Men, Little Talks, questa è una band, insomma la canzone è famosa, pochi magari conoscono il gruppo, ce la segnala intanto questo vostro Si può fare in musica, l'ascoltatrice Fioretta Maddaloni. Questa è una band pop folk islandese nata nel 2010, è arrivata subito al grande successo con questo brano. Caro Carlo, c'è un ascoltatore che è al SMS... ce l'ha con te e con la notizia del dente di John Lennon. Dice bisogna verificare l'autenticità del dente, giusto? Perché quello, però, avendolo pagato $31,000, spero che se invece è il dente di un Doberman qualunque, forse se n'è accorto, fa il dentista, però effettivamente è vero, potrebbe anche magari viene fuori invece che John Lennon è un dente di Lucio Dalla, chi lo sa, no? Potrebbe finire Lucio Dalla. Comunque va bene, così suonerà la chitarra. Va bene, ascoltatori, all'800 24 00 24 abbiamo Margherita che ci chiama da Ferrara. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Le notizie sono due. Allora, scegliamo prima quella che riguarda la scuola. C'è una scuola elementare nella mia città che ha bisogno, come tante altre scuole, di essere tinteggiata. E cosa è successo? I genitori e gli insegnanti, dimostrando di avere una collaborazione insolita, hanno deciso di farlo loro. Okay. Allora si sono organizzati, hanno presentato un progetto, coloriamo la scuola, al dirigente scolastico, che naturalmente è stato molto contento. Non gli pareva vero di risparmiare. Sì, di risparmiare. Ma di che colore l'avete dipinta? Allora, oltre a dipingere, la fortuna è stata, bisogna dire questo, fra un genitore c'era un imbianchino, ha messo a disposizione. Tutte le fortune avete. Sono tanti bambini, un genitore imbianchino. Può capitare, certo. Allora, il genitore cosa ha fatto? Ha messo a disposizione la sua esperienza, ha comprato il materiale all'ingrosso e con €1,500 di spesa... Avete ritinteggiato la scuola. Ma io non c'entro, io non sono né un genitore... faccio parte fra... Diciamo, lei fa proprio la reporter, l'inviata di questa notizia. Infatti io collaboro con un giornale locale che si chiama La Nuova Ferrara. Molto bene, molto bene. Si sta candidando per il mio posto da stagista, direi. L'età non me lo consente. Ma come? Arruolata Margherita, anzi, quantomeno per vincere i biglietti per le mostre e il catalogo. C'era un'altra notizia, ce la vuol dire velocemente? Aspetta, erano due? Velocemente ti dico la storia del colore, perché questa è bella. Sì. Una delle mamme è una fans della filosofia buddista. Sì. Tutto arancione. Sarà una buddista più che una fan. Non è che sono fan i buddisti, comunque, sono credenti. Vabbè, lascia fare, Gabriele, ho detto così. La mamma è una seguace. Sì. Allora, ogni aula ha un colore, e le porte dell'aula hanno un colore diverso che segue quello dei colori dell'arcobaleno. Ma noi quindi, siamo felicissimi, è tutto ciò è meraviglioso. Tutto allora, ciò. L'inaugurazione è il 30 giugno, perché stanno lavorando anche di sabato e di domenica. Sì. Anche perché ogni porta in un colore diverso è molto più difficile, perché fare tutto certo, verdolino, uno si mette certo, e via. Ma questa storia è bellissima, infatti lei si è conquistata, Margherita, uno spazio che normalmente dedichiamo a 7-8 ascoltatori, invece esatto, lei, con questa bella storia. E si chiama lo spazio arcobaleno, direi, scusami se porto sempre acqua al mio mulino, però so, è assolutamente lo spazio arcobaleno. Poi fra l'altro Margherita ne aveva due di notizie, però direi che la seconda ce la darà un'altra volta, perché altrimenti stiamo qua fino a domani. Grazie, beh comunque sicuramente vincerà qualcosa Margherita. Francesco da Parma, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senta questo, io voglio intervenire sugli OGM, sì, perché io sono un tecnico del settore da 30 anni, dagli anni 80. Io ho visto che in Italia, come al solito, noi abbiamo prima di tutto una legislatura che è molto più pesante che in altri paesi. Le faccio solo l'esempio e mi aggancio al discorso del OGM. Mm. Il mais con le aflatossine, ne avrà sentito parlare, è stato un discorso che l'anno scorso ha preso abbastanza tutto il settore. Noi abbiamo 50, il limite è 50, negli Stati Uniti è 500, e con gli OGM si potrebbero abbattere le aflatossine. Sì, però non è che tutto quello che succede in America debba essere preso ad esempio. Per carità, sì, però tanto per dire e per sì, agganciarsi. Secondo discorso, nel 2050 noi saremo 9 miliardi di persone, 9 miliardi e mezzo così. Senza gli OGM non sarà possibile dar da mangiare a tutte queste persone, perché con la produzione più bassa. Va bene, è chiaro OGM, questo argomento Francesco mi sembra chiaro, è già stato detto molte volte. Ma sì, d'altra parte forse si potrebbe sprecare un po' di meno, per esempio il cibo se ne butta via tanto in Occidente, potrebbe essere questa anche una mini ricetta, non lo so, la butto lì. Sì, in più va ricordato che anche in questo momento che invece siamo 7 di miliardi, ce n'è almeno un miliardo che non ha sufficiente cibo comunque, quindi non è che gli OGM abbiano risolto il problema. No, però Francesco dice, se facciamo più OGM possiamo produrre di più e sfamare il mondo, però già al momento il modo in cui utilizziamo, diciamo, quello che produciamo è un po' sbagliato, perché si produce e si butta via in Occidente e si rimane senza in altri posti del mondo, quindi non lo so. Comunque è chiaro che questa cosa scatena un inevitabile dibattito. 800 24 00 24. Per ora però tutti a favore degli OGM, quasi tutti a favore. Io pensavo chiamassero agricoltori biologico infuriati. Anche perché, però di solito quando abbiamo un ospite invece che è contrario agli OGM chiamano oggi l'agricoltore a favore. Di Pavia ha chiamato altri seguaci degli OGM. Traffico tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Parliamo di scuola, perché c'è un appuntamento il primo lunedì della prima settimana senza lezione nelle scuole italiane a Milano. Il Comune di Milano, insieme al settimanale Vita e al Ministero dell'Istruzione, lanciano il primo forum nazionale delle scuole aperte. Ovvero lunedì prossimo, questo, il 16, esatto, giusto? Esatto, tra due giorni. Cioè, scuole chiuse ma aperte. Cioè, tenere aperte le scuole per farci varie attività, insomma, si dice da tempo. Si stanno spaventando tutti gli studenti ragazzi, in scuola. Abbiamo appena finito. A scuola. Oddio, scuole aperte, erano chiuse, invece sono riaperte. Si rinizia, ragazzi, rifate la cartella. Ti ricordi che avevamo parlato a a Modena di quell'esperienza, era uno dei nostri inviati circa, certo, che aveva detto che come riuscivano a tenere le scuole aperte facendo corsi, creatività, associazionismo, di anche tutto. Anche perché è una cosa fondamentale, perché di scuole ce n'è tantissime sul territorio nazionale, quindi e se si riesce ad risorsa. Usarle anche nelle ore in cui non vengono usate, diciamo, per le canoniche lezioni, è una ottima notizia. A Milano si tenterà lunedì di lanciare questa cosa su scala nazionale. Intanto vi vogliamo raccontare una buona pratica di scuole aperte. Ne parliamo con Gianluca Cantisani, che è presidente del Movimento di Volontariato Italiano Lazio. Buongiorno Gianluca. Buongiorno. Buongiorno. Di scuole aperte se ne intende, perché ovviamente parliamo di volontariato, perché non parliamo di obbligo per nessuno, insomma, parliamo di iniziative facoltative e basate sul volontariato. Però che cosa... Stai ritranquillizzando gli studenti che stavano facendo lo zaino. Ho acceso una lampadina, mi stavo preoccupando per loro. Che cosa riuscite a fare voi in queste scuole del Lazio? Beh, intanto io sono presidente del Movi, ma sono anche genitore di una scuola di Roma, che è la scuola di Donato, e sono stato, perché adesso quest'anno sono uscito anche, e abbiamo fatto questa esperienza che continua, di una scuola aperta dai genitori. Ecco, per essere chiari, i genitori, allo stesso modo di chi lavora nella scuola, ha le chiavi e gestisce in maniera condivisa con il personale della scuola, a cominciare dal dirigente scolastico, no? Che gestisce gli orari al di fuori di quelli, diciamo, della didattica. E questa è un po' la novità. Quindi il preside si fida molto di voi, perché per darvi le chiavi, ma cosa fate? Firmate un'assunzione di responsabilità, un'assicurazione? Come funziona? Allora, firmiamo un'assunzione di responsabilità. Le assicurazioni si fanno per risolvere i problemi, quindi poi i problemi si risolvono in tanti modi, no? Ecco, però l'importante è l'assunzione di responsabilità, cioè una regola che ci diamo. In questo caso abbiamo una convenzione, ma in realtà abbiamo, per essere ancora più tutelanti rispetto alla scuola, abbiamo fatto un progetto, stiamo parlando del 2003, insieme alla scuola, che abbiamo inserito dentro al POF. Il POF è il piano dell'offerta formativa, cioè la programmazione della scuola durante l'anno, no? E quindi stare dentro al POF significa che stiamo dentro a quello che la scuola programma. Quindi non un dopo scuola, ma addirittura un dentro scuola. E cosa facevate e fate in queste... qual è l'offerta di corsi, di iniziative? Intanto l'offerta è molto ampia, ma diciamo non c'è la rincorsa adesso a fare più cose. C'è l'idea che i cittadini, come dire, possono partecipare alla costruzione del bene comune. Sì, ma facciamo un esempio: che cosa si fa nella scuola aperta? Perché voi avete le chiavi, allora, andate dentro e... Abbiamo le chiavi alle 4:30 fino alle 22:00. La scuola rimane aperta prima per i ragazzini, perché i ragazzi possono fare tante attività. Dal dopo scuola fino ad attività sportive, ricreative, artistiche, laboratori e laboratoriali, e poi da un certo punto verso la sera cominciano ad arrivare anche gli adulti, che in genere occupano gli orari serali, diciamo che non sono occupati dai bambini. Normalmente la priorità sono i bambini, nel senso che quello che gli orari vengono decisi a cascata, prima vengono le priorità dei bambini. Ecco, ma noi leggiamo, no, in un'intervista che lei ha rilasciato su Repubblica, corsi di karate, capoeira, teatro, arabo e canto. Cioè, ha esagerato il giornalista oppure fate davvero tutte queste cose? E poi la domanda, ma sono gratis? Le fate? No, non sono gratis, nel senso che ci sono dei costi, ecco, ma sono dei costi assolutamente a portata sostenibili. Dopodiché noi intanto non è che si facciamo... risparmia sulla non bisogna affittare una sede, perché la scuola questa sì è gratuita, immagino, o vi fanno pagare la scuola? No, non credo. No, diciamo c'è uno scambio, c'è un baratto, tutto non avviene, tutto come dire, quello che avviene sulla base di un baratto, di uno scambio, sì? Che è formativo, è sui lavori di manutenzione, e sull'apertura appunto della scuola, che non costa nessuno, perché viene, come dire, e però attenzione che, diciamo, lo scambio avviene anche sul fatto che, per esempio, noi non gestiamo quasi direttamente nulla, ma abbiamo un accordo con circa 30-40 realtà del territorio, sì, che vengono a fare delle cose in cambio di una, anche lì di un accordo, no? Di responsabilità, per cui per esempio tutte queste realtà sono tenute a dare delle gratuità per chi, per tutti quei bambini che non hanno difficoltà, diciamo, economiche. Quindi, diciamo, volendo semplificare, io sono un'associazione di genitori, ho una scuola che mi dà ospitalità, chiamo qualcuno che organizza già dei corsi, gli dico vieni, tieni dei prezzi ragionevoli, qualcuno me lo fai gratis per i ragazzi che hanno sono indigenti, indigente eccetera, e così, diciamo, è una cosa che conviene a tutti alla fine, si tiene la scuola aperta che è una risorsa e magari i ragazzi hanno la possibilità di passare dei dopo scuola diversi, è un po' questo il senso, e ripeto, tutto li tiriamo via dalla strada e dalla televisione, certo. Senta, ma voi sarete a Milano al Forum Nazionale per presentare queste vostre esperienze di Roma o vi hanno invitato? Sì. Siamo stati invitati, diciamo. Bene. C'è un percorso romano, c'è una rete di circa 30 scuole, diciamo che più che scuole sono 30 genitori, diciamo sono genitori di 30 scuole, okay, a Roma, che si stanno un po' aiutando a capire come si può fare, perché non è semplicissimo, perché molti dirigenti scolastici hanno timore. Si può fare, si può fare, è nel posto giusto per dire si può fare. Esatto, lo dica, lo dica. Sì. No, si può fare, anzi io direi di più, si deve fare, perché sennò il cambiamento, noi non cambiamo questa né la società né la scuola, e che abbiamo un gran bisogno invece di coinvolgere, direi, guarda, la cosa più bella in assoluto è che tutti gli adulti da noi sono tornati in qualche modo a imparare qualcosa, sono tornati a impegnarsi. Bravo, perché poi la cosa bella è facile da ragazzini divertirsi a fare corsi di capoeira o di karate, più difficile è mettere in gioco i genitori, li vorrei vedere, sicuramente fa bene anche a loro. Grazie mille, grazie intanto mille. A Gianluca Cantisani del Movi Lazio, genitore a Roma, con questa esperienza di scuola aperta, di cui se ne parlerà anche, insomma, lunedì, per chi è interessato c'è un appuntamento a Milano. Adesso, quando andavamo a scuola noi non c'era tutto questo, si scappava e basta, c'era il calcio, basket, come ho già detto, avendo io fatto la scuola tedesca, in realtà noi facevamo scuola anche al pomeriggio, tanto erano già aperte le facevo scuole. Anche teatro io nella mia scuola, ho debuttato in teatro all'interno della scuola tedesca. Benissimo. Deborah da Rovigo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Io volevo intervenire a proposito degli organismi geneticamente modificati, fare una riflessione su quello che è il prodotto tipico italiano. Sì. E vorrei dire questo, il tipico italiano, i nostri grandi formaggi, i nostri grandi prosciutti che così tanto valore danno all'esportazione del settore agroalimentare italiano, al Made in Italy, sono già prodotti ampiamente con organismi geneticamente modificati, perché per alimentare le vacche che fanno il latte, i maiali che ci danno i prosciutti, noi dipendiamo pesantemente dalle importazioni, per il 90% dalla soia, che è quasi tutta OGM, e per il 40% dal mais, che è in buona parte OGM. Questo è vero, è stato detto anche altre volte, in effetti noi non produciamo in Italia ma utilizziamo prodotti OGM anche appunto per sia nei prodotti finiti alimentari che consumiamo noi, sia in quelli che poi alimentano gli animali. Gli animali, perché questa è una contraddizione. Perché la soia non fa parte, direi, dei prodotti tipici italiani, giusto? No. Che viene data da mangiare alle vacche italiane. Che poi fanno il latte, che fanno il parmigiano. Ora, quanto diretta o indiretta sia questa parmigiano catena. Parmigiano di soia. Parmigiano di soia. Quanto indiretta sia, lo lasciamo decidere a Elena Cattaneo, no? A chi se ne intende, voglio dire. Comunque, è giusto sollevare questa contraddizione. Grazie. Grazie Deborah. Franco, no, Lauro da Padova volevo sentire prima, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Io vi ringrazio. Allora, io sono uno scollocato, nel senso che fino a 6 anni fa ero un consulente informatico e da 6 anni sono nel mondo dell'agricoltura. Scollocato, bello scollocato, si dice scollocato? Sì. Cioè lei va, ho imparato una nuova parola, ne sono molto contento. Va contro tendenza, passa dal settore informatico all'agricoltura, cioè all'agricoltura, certo. Tornato indietro. E la nostra famiglia è italo-venezuelana e volevo portarvi l'esperienza che nell'America Latina si sta sviluppando tantissimo quella che si chiama agricoltura organica, completamente naturale. Volevo dire ai signori che parlano tanto di OGM che quando noi entriamo in un bosco completamente naturale, dove la mano dell'uomo non c'è, il bosco è un posto, dico bosco per dire selva, foresta tropicale, eccetera, dove la mano dell'uomo non esiste e dove c'è un equilibrio e uno spettacolo, uno splendore meraviglioso. Dunque, un ecosistema che funziona da sé. Esattamente. Allora, siccome la natura è venuta prima dell'uomo, e se l'uomo sparisse da questo mondo, la natura continuerebbe ad autogestirsi, perché è in grado di autogestirsi. A questo punto l'agricoltura sta cercando di espellerci, direi. Mi sembra un ottimo piano. Ecco, l'agricoltura organica a questo punto sfrutta ciò che già la natura è in grado di fare, quindi tutti i prodotti di scarto, diciamo poveri, che ha un'azienda agricola, come può essere il latte di una vacca che ha una mastite, appunto lo scarto di una vacca viene riutilizzato in qualche modo. Si dice merda, va bene, infatti c'è un detto di con acqua e merda non hai cosecia che si pierda, cioè con acqua e sterco di vacca non hai un raccolto che si perda. Cioè, voglio dire, signori, attenzione, perché poi tutte queste malattie rare, che si dicono rare, tutti questi istituti di ricerca, le medicine eccetera, ma non riflettiamo che modificare geneticamente un organismo significa andare contro la natura. Va bene, questo diciamo è più sul piano filosofico, però mi incuriosisce, ma lei è passato a questo settore, che cosa fa, di cosa si occupa in concreto? Ma io praticamente ho iniziato proprio in una stalla, ho iniziato proprio ad aiutare un allevatore. A mungere. Ma più che mungere, gli portavo in giro il latte in quelle casette del latte. E adesso ha fatto un po' di... Adesso poi ho fatto un'esperienza in una cooperativa di consumo e adesso mi sto lentamente approcciando invece alla produzione agricola vera e propria. Ho fatto dei corsi, appunto l'agricoltura organica è presente anche in Italia, adesso non voglio fare nomi, ma comunque... Vabbè, insomma, però lei ci dica una cosa, è più soddisfatto adesso o era meglio fare il consulente informatico? Assolutamente sì, assolutamente oggi, perché bene, questo è importante. Perché l'agricoltura vuol dire libertà, vuol dire indipendenza economica, nel senso che se hai un campo, hai una stalla, hai qualcosa, quello che facevano i nostri nonni. Ma lei ce l'ha il campo, mi scusi? Lei ce l'ha il campo? Beh, io ho iniziato con un piccolissimo orto a casa. Ah, era sua la stalla? Avevo capito che andava a lavorare. No, la stalla no. Adesso sono tutti esperimenti che si fanno in collaborazione. Per adesso c'è il campo, la stalla arriverà, non è che si può avere tutto d'un botto. Va bene, grazie Lauro, grazie mille. Buon sabato. Ho apprezzato anche molto che traducesse merda in sterco, giustamente. Perché dopo si merda è reso conto, ho detto, che... Beh, questa l'ho capita anch'io di parola, mi sembrava di averla capita. Ha detto merda. 800 24 00 24, facciamo una pausa, torniamo tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Vola sopra il traffico, vola sullo smog, risparmio la benzina, mi diverto e faccio sport. Questa è la mia droga, non ne posso fare a meno, se il tragitto è lungo me la carico sul treno. Macchine, chilometri e fatichi sempre poco, con un carrello al seguito può fare anche un trasloco. Me la porto in casa, vado su con l'ascensore, la prendo alla parete e poi la lucido per ore. Veleggio, pedalo senza fretta, plane galleggio sulla mia bicicletta. Vabbè, qua in studio siamo un mezzo ciclista e uno scooterista. Sì, assolutamente. Ma a me piacerebbe molto andare in bicicletta, sì, però vabbè, insomma, è molto difficile. Poi sono contento, dovremmo fare forse un CD di canzoni sulla che parlano di bicicletta, perché mi aspettavo il nostro Pedala con Frankie Energy. Vabbè, intanto cambiamo. Ho visto che è stata usata moltissimo anche durante il Giro d'Italia per le sigle della Rai. È vero. Diciamo che in Italia conviene fare una canzone sulle biciclette. Funziona. Parliamo di un appuntamento oggi a Roma, Velo Love, manifestazione nazionale dei ciclisti alle 15, credo, a Piazza del Popolo. Ma chiediamo di che cosa si tratta. Chiediamo lumi a Daniele Iaristati, che è proprio l'organizzatore di questa manifestazione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Velo Love, appuntamento, diciamolo. Allora, l'appuntamento per la manifestazione è alle 15, però diciamo la giornata si snoda in più eventi che si sovrappongono a vari orari. A partire da questa mattina io sono già in Villa Borghese. Infatti c'è un picnic, ho letto, io sono interessatissimo al picnic. Allora, diciamo che quello è un evento molto divertente, il Tweed Ride, è un picnic in stile d'epoca con biciclette e abbigliamento dei primi del Novecento. Ah, fantastico, anche le biciclette con quelle ruote, con le biciclette, con la ruota grande e la ruota piccola? Anche quelle. No, questo è stupendo. Chissà perché erano fatte così quelle biciclette? Era un discorso di equilibrio, perché non c'era la catena, erano collegate direttamente pedale a ruota. Perché una manifestazione? Noi siamo abituati a in bicicletta andare a dove ci pare, divertirsi, fare una biciclettata tra amici. Perché una manifestazione di ciclisti? Per dire che cosa anche a qualcuno? Allora, essenzialmente, sì, essenzialmente la nostra è un momento per festeggiarci questo di oggi, ma anche per ribadire la difficoltà che abbiamo quotidianamente nello spostarci e quindi rivendicare, tra virgolette, una situazione sulle strade un po' più adeguata alle nostre esigenze. Diciamo che fondamentalmente il nodo della manifestazione è appunto la richiesta di un rallentamento nei centri urbani, non sulle strade d'alto scorrimento, ma diciamo su quelle vicino alle scuole, quelle più piccole, in cui vorremmo che il limite fosse portato a 30 e consentisse una riduzione degli incidenti non solo per i ciclisti ma anche per i pedoni. Quindi diciamo l'obiettivo 30 nelle strade a basso livello di percorrenza è quello che ci prefiggiamo con questa manifestazione. Tra l'altro, per esempio, a Milano c'è una sperimentazione che dovrebbe partire, tra l'altro, nel quartiere dove abito io, dovrebbe partire una sperimentazione di zona 30 con attraversamenti nella zona delle scuole e appunto un limite medio di 30 km orari. Vedremo se non farà infuriare troppo gli automobilisti, ma tanto in realtà già si va a quella velocità e questo è il punto, per cui diventerebbe come dire una consacrazione di una realtà che già esiste. Diciamo che è uno studio di Confindustria, io vi conforto in questo, che dimostra che nelle città italiane ci si sposta alla velocità a cavallo dei primi del Settecento, quindi intorno ai 7 km orari medi di spostamento. Quindi, cioè è la stessa velocità di quando ci si spostava a cavallo? Sì, è uno studio di Confindustria, dimostra che c'è una perdita di competitività del paese dovuta proprio a questo andare alla lentezza nei centri urbani. È incredibile, non immaginavo che si andasse alla velocità... E anche perché non c'era traffico quando c'erano i cavalli, o c'erano molti cavalli in coda? No, non penso ci fosse traffico, ma penso fosse proprio la velocità media. Tanto è vero che appunto lo studio sulle zone 30 ha dimostrato che si rende il traffico più scorrevole rispetto ai 50 all'ora, perché si crea una media di traffico sostenibile e quindi anche di maggiore velocità poi media. Ma è talmente vero che molte attività commerciali, soprattutto Pony Express, ma anche artigiani, si muovono sempre di più, non solo con lo scooter, ma anche con la bicicletta nelle città, non solo quelle piccole, ma soprattutto quelle grandi, dove si rischia di metterci un'ora per andare da una parte all'altra, invece con la bicicletta fai prima, e quindi sempre più ciclisti anche nelle attività commerciali. Ma la VeloLove oggi, appuntamento a Roma, è un, come dire, siete gelosi della vostra identità o è una manifestazione a rete con tutte le altre realtà, perché ne abbiamo nominate molte in questi mesi, già i salvaciclisti, il bike to school, eccetera eccetera. Esatto, noi siamo come Rete Mobilità Nuova, quindi raccogliamo tutte le associazioni non solo di ciclisti legate ai temi. Siete aperti, meno male. Però bisognerebbe dire anche una cosa che a queste manifestazioni, che i ciclisti ogni tanto dovrebbero darsi una regolata e non andare come matti magari in controsenso o sui marciapiedi, che poi le signore anziane rischiano, si arrabbiano e vengono criticati molto i ciclisti anche per questo. Questo diciamo che è un tema a noi caro, nasce però da una problematica di base, cioè la nostra lotta è proprio questa, cercare di rendere le condizioni su strada tali da non dover costringere il ciclista in certi casi a salire sul marciapiede, piuttosto che, diciamo che se ci fosse una rete infrastrutturale più adeguata, limiti di velocità più adeguato, elimineremmo comunque anche questi piccoli comportamenti qualora ci sono, perché comunque diciamo la scorrettezza alla fine può esserci in tutte quante le categorie di trasporto, però diciamo condivido, non è che sia un tratto distintivo dei ciclisti quello di essere scorretti, anzi non mi sembra. No, però non è vero neanche il contrario, cioè che se uno è ciclista automaticamente è virtuoso, no, perché c'è un po' questa cosa. A volte è un po' di invidia, sei sempre in macchina, sono tutti in macchina, vedono un ciclista che passa con il giallo e allora dicono guarda è passato con il giallo, è l'invidia, assolutamente è vero. Va bene, grazie Daniele, organizzatore di VeloLove, appuntamento oggi a Roma, grazie. Purtroppo noi siamo a Milano, se no verremo assolutamente al picnic. Aspettiamo gli altri però. Sì, assolutamente, tutti invitati. Poi faremo un VeloLove anche a Milano, semmai. Ancora un ascoltatore, Franco da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, io sono un produttore biologico in Toscana. sì, da 25 anni e prima ho fatto 15 anni di basso impatto ambientale. Voglio dire tre cose sulla storia degli OGM. Dica. In primis, quello che ha detto quel signore su di Pavia mi pare sia una grande castroneria, perché portare da una tolleranza 50 come in Italia a 500 come vorrebbero gli americani, che loro si mangiano tutte le porcherie del mondo, evidentemente sanare così per decreto le cose mi sembra una pazzia che spero nessuno ascolti. Secondo, facendo l'agricoltura biologica o comunque facendo le rotazioni, anche chi non fa il biologico, tutta la storia delle aflotossine, delle malattie si supera, perché si ammala quel mais, perché fanno da 50 anni mais tutti gli anni e quindi tutti gli insetti, tutte le malattie possibili e immaginabili si concentrano in quella zona. Io che faccio produzione biologica e faccio delle rotazioni non ho questi problemi e non compro nessun medicinale. Bravo, e questo è uno dei punti a favore. Oh, cioè che si può superare questo problema non con gli OGM, ma con la sapienza di come si coltiva. C'era la morte, ora c'è la vita, c'è tutto il ciclo degli animali, dagli istrici, che posso dire, agli uccellini che si mangiano le larve del pino, delle larve della processionaria del pino, e anziché dargli sparargli, come mi dicevano, o dargli addirittura dei trattamenti che facessero infettare queste larve, la natura ci ha pensato da sé. Quindi che raccontano questa gente che ne capisce? Ma lei che cosa produce, Franco? Istrici. Io faccio una produzione all'anno, un anno pomodori, un anno grano, un anno ceci. Punta tutto su un prodotto e fa la rotazione. Sì, e questo le consente. Si fa tutto a macchina, quindi si può fare uno spezzatino di coltivazione. Bravo. La rotazione. E quest'anno chiedeva Gabardini cosa fa? La faccio nel tempo, prego. Quest'anno cos'è? L'anno del pomodoro? Questo grano duro, fra poco vado a raccoglierlo. Ah, bravo. È l'anno del grano duro. È anche l'anno del grano duro. L'anno scorso pomodori, l'anno prossimo tutti i ceci. E poi si rinizia di nuovo grano duro. Sì, esatto. E lei così facendo, scusi, con questa rotazione in pratica lei già non con questo abbatte. Non c'ho bisogno di fare pochissime coltivazioni, ma meno ancora nessun trattamento. Straordinario. Però mi scusi, ma quanto costa, Franco, cambiare ogni volta? Cioè, per un agricoltore che magari non ha un'impresa, ma insomma è lì da solo o ha un'impresa piccola, non è costoso cambiare ogni anno coltivazione? Non ci sono dei costi di investimento? No, perché ci sono dei parchi macchine che cambiano. Quando si fanno pomodori c'è tutto un parco macchine. Lei le affitta le macchine? No, io ho le mie di base per l'irrigazione, per alcune cose. E poi cioè bisogna essere organizzati via per fare quello che fa lei. Però complimenti. Che viene quando ci sono pomodori, ci vogliono tutto il parco macchine per pomodori, quando sono le bietole per le bietole, quando c'è il grano per il grano. E però sì, bisogna essere molto bravi, anche perché per mangiarsi una pasta ceci e pomodori bisogna aspettare 3 anni, bisogna aspettare tutto il ciclo. No, che c'entra. No, sono lo stupido dei due, io mi scusi. Sì, faccio lo stupido. Grazie, Franco. Grazie. Sì, veloce. Dica. Forse non ho mai sentito, abbia pazienza. Ma lei e chiunque altro, quando andate alla Coop, alla Conad o qualsiasi supermercato o un mercato piccolo, trovate mai qualcuno, qualche signore, qualche signora che dice ma io cercherei questi prodotti OGM, non li trovo? L'avete mai cercato? Io non l'ho mai trovato. No, la gente cerca prodotti buoni, quello sicuramente sì. No, probabilmente cerca prodotti buoni che costino poco e spesso probabilmente sono quelli fatti con gli OGM. Cosa vuol dire con questo, Franco? Biologici, nessuno cerca prodotti OGM. Certo. Questa è una speculazione che vogliono fare alcuni agricoltori pigri che non fanno rotazioni e che coltivano il mais o la soia da un sacco di tempo e si baloccano con questa storia degli OGM. Ma lei, scusi, allora, Franco, falla finita, l'hanno capito che i consumatori italiani non vogliono gli OGM? Mi sto appassionando, ma lei che quanti ettari ha? 10. Sono tanti o pochi? Non sono tantissimi. Ma, medio piccolo. Medio piccolo. Quindi lei non è un grande imprenditore, cioè lei è un imprenditore normale. Non sì, è... sì, sono imprenditore. Va bene. Insomma, però è molto bella la teoria di dire, insomma, siccome non c'è la richiesta, nel senso che nessuno va al mercato e dice io voglio assolutamente, volevo mangiare un pomodoro con dell'OGM, invece tutti chiedono prodotti biologici, questo è giusto. Poi c'è anche il fatto che per comprare prodotti molto economici noi mangiamo un sacco di OGM, magari nelle merendine piuttosto che nei biscotti, nessuno, non è che vado a chiedere, ma proprio voglio un po' di OGM adesso, vorrei un OGM con un filo d'olio. Franco, è ancora in linea? Sì, sì. Facciamo così, perché lei ne sa talmente tanto di questo argomento. Resti che a noi con noi. No, resti con noi, no, adesso dobbiamo andare avanti. Però ci possiamo risentire un'altra volta più avanti. Ci racconta... Volentieri. Adesso il mio numero, quando volete mi chiamate. Io di queste cose, insomma, non solo ne sa, me ne intendo perché, sì, per lo, perché l'ho studiato o conosco un po' l'agricoltura di tutto il mondo, sì, ma perché la faccio veramente, ci sono nato nell'agricoltura e la faccio con tutto l'amore possibile, e vedere che lì dalla morte c'è tornata la vita grazie a questo, dove si fanno gli OGM, è una cosa innaturale, lo capiamo. Va bene, no? Franco, quando lo fa il raccolto del grano? Ci risentiamo? Tra la settimana. Ecco, la settimana prossima allora ci risentiamo, ci dice come sta andando. Assolutamente. Grazie. Grazie, ha inventato uno slogan bellissimo che è agricoltori pigri, cioè chi usa gli OGM sono agricoltori pigri, gente che non ha voglia di lavorare, mi sembra molto divertente. Traffico. Si può fare cronache da un paese migliore. Se c'è qualcuno che ha voglia di ballare, si faccia avanti, si faccia avanti. Se c'è qualcuno che ha voglia di cambiare, si faccia avanti. I funzionari dello Stato italiano si fanno prendere spesso la mano. Iniziano bene, finiscono male, può capitare che li trovi a rubare. E fanno cose che stanno bene solo loro, a usufruire di vantaggi esagerati. Così abbandonano ogni tipo di decoro e si comportano come degli impuniti. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. Questa è la cumbia di chi cambia, la cumbia di chi cambia. E ritroviamo Daniel Tarozzi. Ciao Daniel. Ciao, buongiorno a tutti. Il nostro... Non sapete cosa avete fatto con questa canzone. Eh? Non sapete cosa avete combinato con questa, ecco, canzone. Ecco, no, abbiamo combinato. Abbiamo combinato. Praticamente io da un mese che sono in camper e ogni mattina sveglio i miei colleghi con questa canzone e mi odiano a morte, per cui ecco, li abbiamo svegliati tutti adesso. No, infatti io volevo chiederti se ti piaceva essere associato a questa cumbia di chi cambia di Celentano, ma la risposta ovviamente è sì, a te sì, ai tuoi colleghi magari un po' meno, però hanno questa risposta pavloviana. Però per cui... spieghiamo perché, a un momento, facciamo ordine. Allora, chi ci segue, chi segue Radio 24 Si Può Fare, conosce Daniel Tarozzi, giornalista perennemente in viaggio alla ricerca dell'Italia che cambia. Adesso sta portando avanti un progetto che si chiama proprio Italia che cambia. Ecco perché il gioco con la canzone di Celentano, un altro viaggio che si sta per concludere tra qualche giorno, per fare cosa, Daniel? Per fare cosa? Per mettere in rete, mappare, rendere evidente, far emergere dal buio le centinaia, migliaia, forse milioni di realtà virtuose che popolano il nostro paese. Non più fenomeni di nicchia, non più singole buone prassi, ma un vero e proprio pezzo di paese che funziona, che reagisce, che costruisce un altro modo di vivere, di essere, di fare economia, di fare associazionismo, di creare un mondo sostenibile. Facciamo alcuni esempi, insomma, legalità, ambiente, economia, così giusto per capire di cosa stiamo parlando. Legalità ovviamente a Dio Pizzo, che sembra un'esperienza molto nota, ma in realtà spesso non se ne coglie fino in fondo la profondità, no? Prima quando la mafia ti bruciava il negozio tu eri solo, adesso gli altri te lo ricomprano, certo, perché la rete che si attiva, oppure i tantissimi beni confiscati che vincono non solo essendo ospiti di altri tipi di attività, ma queste attività dimostrano che funzionano meglio, che danno più occupazione, quindi vincono anche nella pratica, no? Ambiente, per esempio, Daniel, ti usiamo come un Wikipedia dell'Italia che cambia. Ambiente, beh, qui ovviamente ambiente è tutto, oggi no, forse non ha neanche più senso di parlare di ambiente come qualcosa di separato, infatti. Secondo me ambiente è economia, cioè è l'unica economia che funziona, è un'economia basata sulla sostenibilità, quindi sul partire dal territorio, dalla biodiversità agricola, alimentare, umana, culturale, dalla messa, da far funzionare insieme queste cose, cioè non c'è più appunto l'ambiente come qualcosa di separato da proteggere, ma come la casa in cui viviamo che grazie alla quale possiamo creare economia, ripeto, cultura, sì. Mondo sostenibile. Diamo anche, Daniel, diamo anche le coordinate, perché questo viaggio che stai facendo si conclude il 22 giugno, poi diciamo anche dove e perché, a favore dell'Italia che cambia, è un viaggio anche alla ricerca di fondi, perché volete fare questa mappatura dell'Italia migliore, dell'Italia che cambia, mettere insieme tutte le realtà, farle uscire dalle loro nicchie, però avete bisogno anche di una mano. Esatto, sì, noi su italiachecambia.org vogliamo creare un portale su base regionale, Lombardia che cambia, Puglia che cambia, Sardegna che cambia, all'interno del quale raccontare tutte queste realtà, ma soprattutto mapparle, renderle evidenti, ma proprio nel senso che uno cerca vicino a casa sua chi c'è e gli escono tutte le migliaia di realtà che si muovono sul suo territorio, dai punti che accettano lo shack, ai punti biologici, ai punti vegani, ai punti che aderiscono a Dio Pizzo, a quelli che, non so, agli ecovillaggi, negozi senza soldi, circuiti di baratto, c'è veramente un paese, oggi si parla di milioni di persone, le stime più pessimistiche parlano di 6 milioni nell'economia solidale, di 4 milioni e mezzo nel terzo settore, insomma. Scusa, posso farti una domanda stupida? Tanto ci conosciamo, quindi lo sai che io sono lo stupido dei due. No, quello che mi chiedo è come si fa a scegliere quando una realtà, un'iniziativa è quella che cambia, perché giustamente no, tu dici... quelli che cambiano. Bella domanda, perché filosofica. Il vero problema è capire quando è cambiamento e quando invece in realtà è reazione, ragione, diciamo. Ma guarda, noi quello che ci muove da come giornalisti, quindi non è che non diamo un bollino di qualità, ma noi andiamo a verificare, diciamo, a cercare le persone che si assumono la responsabilità della propria vita e in vari modi cercano di cambiare le cose. E quindi la selezione avviene andandoli a incontrare, vedendo cosa fanno, capendo come si muovono. Dopodiché però l'unico vero marchio di qualità su internet, lo sappiamo, è la rete stessa, quindi sono poi gli utenti che diranno guarda che questa cosa non sta seguendo le promesse giusto, che ha fatto. Un po' hai risposto perfettamente, guarda. Sei stato mi bravo. Porto a casa assumersi la responsabilità, hai ragione, l'importante è conoscersi e vedersi anche un po' dal vivo, è forse quello, sì, tu noi, dici noi vado a incontrarli. Le barriere, no? E sei stato anche nei tempi, Daniel, adesso in 20 secondi, 30 secondi per dire il 22 giugno a Viandanza, ci sarete anche voi, festival della Viandanza, che cos'è questo sì, appuntamento? Sì, a Monteriggioni, vicino a Siena, ci sarà il festival della Viandanza, il Camminare Lento, sarà anche una festa dell'Italia che cambia, ci saranno incontri sull'integrazione, incontri sul movimento lento, sul camminare, sulla bicicletta, sulla mobilità, incontri sul vivere con pochi euro al giorno, ci sarà veramente. Comunque, un po' di tutto, dico ancora io una cosa, perché siamo davvero in chiusura, grazie intanto a Daniel Tarozzi, se volete sapere dove sta il viaggio l'Italia che cambia, Daniel Tarozzi, lo trovate sul sito, ci sono vari appuntamenti, gli ultimi sono 20, 21, 22 giugno a Monteriggioni per il Festival della Viandanza. È l'ora dei saluti, grazie a tutti, grazie a Andrea Piana che ha scritto con noi il programma, Giorgio Luca in redazione, oggi avevamo Guido Scotti in assistenza, in diretta, così come il nostro Roby Scaltritti in regia. Caro Carlo, salutiamo, ci sentiamo domani, assolutamente sì, tanti buona giornata saluti da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, ciao, a domani.